X24 di Giovanni Minoli. Mentre il quadro politico resta complesso, continuano i preparativi per una missione militare internazionale volta a contenere l'espansione di ISIS, che ha la sua base a Sirte. Palazzo Chigi ha precisato che qualsiasi azione statunitense sarà concordata con noi. Anche l'Italia è pronta ad azioni militari, purché siano richieste dal nuovo governo di coalizione. Si infittiscono le discussioni su eventuali interventi di terra da parte dei paesi occidentali. Uomini delle nostre forze speciali starebbero preparando in Libia un intervento militare italiano. Tutto falso, secondo lo Stato Maggiore della Difesa, che in una nota precisa nessun componente delle nostre forze speciali è impegnato in Libia. Allora, fin qui sembra niente guerra in Libia, ma comunque, se mai fosse, per fare la guerra ci vorrebbero anche i soldi. Ecco, onorevole Francesco Boccia, buongiorno, presidente della Commissione Bilancio della Camera. Onorevole Boccia, Renzi nella legge di stabilità si è preso dei margini di flessibilità che sono stati autorizzati dal Parlamento italiano, non ancora dall'Europa, ma quello lo vedremo. Ma per finanziare cosa esattamente questi margini? Pronto? I margini sono stati presi per le missioni internazionali e per eventuali nuovi impegni. Cioè, questi finanziamenti coprono tutto l'ammontare della flessibilità che il Parlamento ha concesso a Renzi oppure no? La flessibilità concessa a Renzi aveva delle risorse aggiuntive rispetto a quelle utilizzate in stabilità, una parte sono andate in un fondo speciale presso la Presidenza del Consiglio. Cioè, lei dice che esiste nella legge di stabilità una disponibilità finanziaria non ancora impiegata, è così? Esatto, ci sono almeno 600 milioni della stabilità 2016 nella disponibilità della Presidenza del Consiglio e oltre 930 milioni nel fondo missioni internazionali che era già finanziato. Ovviamente quest'ultimo fondo serve per finanziare anche le altre missioni internazionali in corso. Anche le altre? Ecco, no, glielo chiedo perché, come abbiamo letto tutti sul New York Times, proprio ieri si parlava di una campagna militare in Libia che comprende anche le forze italiane. Se ne è parlato ufficialmente? Ufficialmente non se ne è parlato e penso che se ne debba discutere ovviamente nelle sedi opportune. Ecco, però io glielo chiedo perché in un'intervista fatta alla Pinotti l'altro ieri da me, una domanda sulla gravità della situazione in Libia, la risposta mi ha molto colpito. Senta cosa ha detto il ministro Pinotti. Sì. Perché monitoriamo la situazione? Perché se nascesse un rischio concreto per l'Italia, siamo in grado di intervenire. Cioè, questo è una cosa andiamo che in guerra. Domanda. Non, chiedo, nessun ministro della difesa racconta no, come intende intervenire e guai se si svelano i piani militari. Va bene, quindi okay, certamente d'accordo. Questo non ve c'è lo un dico. Segreto quel, su il quello messaggio, che ci farà. Il messaggio giusto. Ottimo, ottimo. Il messaggio è che non è che io parlo e parlo di preoccupazioni sì. E parlo di politica perché faccio politica, ma nel frattempo c'è un lavoro che non certo. È di ora, che parte dalla marzo-aprile dell'anno scorso, che fa sì che se dovessero nascere rischi per il nostro paese siamo pronti. Allora, marzo-aprile dell'anno scorso ci sono già delle azioni, diciamo, sono state smentite ufficialmente l'esistenza di queste azioni, però qualcosa sta capitando, no? Beh, sotto gli occhi di tutti, la Libia è fuori controllo da tempo. Ecco, però il New York Times e Cirenaica sono ormai pezzi di quel territorio. No, d'accordo, però assolutamente dicevo fuori controllo. Se il nuovo governo libico dovesse chiedere un intervento militare a una serie di paesi, secondo me sarebbe giusto valutarlo. Ecco, il New York Times, lo ripeto, ha detto con chiarezza che l'Occidente, diciamo, compresa l'Italia, è pronta a fare la sua parte, quindi sostanzialmente a fare la guerra. E i soldi di cui stiamo parlando, che restano nella disponibilità della Presidenza del Consiglio, potrebbero essere quelli necessari a finanziare questa missione internazionale in Libia alla guida italiana? potrebbero essere sufficienti per partire. Quando si iniziano le missioni militari non si sa mai quanto durano, quindi naturalmente sicuramente possono essere utilizzati per partire. Quindi ci sono i soldi per fare la missione. Ecco, ma per farla eventualmente, oltre ai soldi, che tipo di consensi sono necessari sul piano internazionale e nazionale? Beh, intanto che te lo chieda quel governo, perché altrimenti non avrebbe alcun senso. Mi pare sì, ma il Parlamento deve approvarlo, no? Non c'è dubbio. Ah. Sul piano interno è necessario che il Parlamento si esprima su... Quindi, diciamo, ci sono i soldi, c'è un'intenzione, il ministro, l'abbiamo sentito, parla di una preparazione che dura da marzo-aprile dell'anno scorso. Preparazione a cosa? È evidente che non può svelare. No, ma se parla militari. Di preparazione, parla di preparazione a che cosa? La Libia è di fronte a noi, i rischi che ci sono in quel paese, gli effetti. Onorevole Boccia, preparazione a cosa? Preparazione a cosa? A fare la guerra? Le forze militari italiane sono ogni giorno in preparazione per eventuali interventi. No, d'accordo. No, è evidente che non è escluso che si stiano preparando anche per l'intervento in Libia. Senta, ma i 450 militari italiani che sono in difesa della diga di Mosul, già è ufficiale, sì, possono essere interpretati come un primo passo in questo senso? Perché no? Certamente sono lì per motivi di sicurezza. Senta, tornando alla legge di stabilità, per l'approvazione in Europa ci sono buoni segnali oppure no? Quella di primavera? Il rapporto con Bruxelles è un rapporto complicato da un po' di tempo a questa parte. Io mi auguro che... No, ce l'auguriamo tutti, ma lei che sensazione ha che è più interno a queste cose? Io sono abbastanza convinto che alla fine non si ci trova. Sarà una procedura di infrazione e... Ci sarà una procedura di infrazione, sì. No, io la lei pensa? Pensa che ci sarà o che non ci sarà? No, io penso che non ci sarà. Ah. Certo, l'Italia ha assunto, stante questo quadro, tutti i margini di flessibilità che aveva a disposizione. Quindi o si rinegozia nei prossimi mesi il rapporto con Bruxelles anche sugli investimenti pubblici, o fare la legge di stabilità 2017 sarà abbastanza complicato. E che previsione fa per l'incontro di domani tra Renzi e Merkel? Quale potrebbe essere un punto d'accordo? Ma io penso che finirà 0-0. 0-0? Cioè? Cioè che... Bad bank sì o bad bank no? Bad bank sì e... Purtroppo, aggiungo, io penso che la Merkel resterà sulle sue posizioni, su flessibilità no, invece la flessibilità serve soprattutto per gli investimenti pubblici, e la debolezza di questa Europa sarà ancora una volta, verrà fuori perché entrambi penseranno alle campagne elettorali domestiche, più la Merkel per la verità, perché Renzi ha meno questa esigenza, però temo che alla fine finirà 0-0 come la maggior parte degli incontri bilaterali dei grandi paesi europei, perché ognuno pensa prima di tutto al proprio paese e poi all'Europa. Senta, onorevole Boccia, un'ultima domanda. Le piace il disegno di legge Cirinna sull'unione civile? Sì. Lei pensa che si troverà un accordo su questo punto o no? Che passerà? Spero si trovi, perché è un passaggio inevitabile rispetto all'evoluzione. Quindi lei è favorevole anche alle adozioni? Io sono favorevole, diciamo, per il 90% di quel provvedimento. Sulle adozioni si sta parlando dell'estensione dei diritti che oggi già ci sono per le coppie eterosessuali, poi vorrei però che parallelamente il Parlamento normasse tutte le adozioni, perché oggi c'è un mercato francamente insopportabile, certo. E lì va bene, adesso ho molti dubbi sulle modalità con cui si arriva. Bene, noi infatti ne parleremo tra pochissimo. 800... Lo lascerei così. Grazie onorevole Boccia. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. La Chiesa ha indicato al mondo che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione. Io preferirei l'estensione del matrimonio civile, essendo io una cittadina italiana che paga le tasse, quindi chiaramente preferirei poter accedere allo stesso istituto a cui accedono i miei colleghi e i miei amici. e a complicare il percorso del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili non è più solo il dibattito sulle adozioni, ma ci sono anche i dubbi del Quirinale sul rischio che queste unioni siano troppo equiparate al matrimonio. È un tema che divide anche dentro il PD, anche dentro Forza Italia. Io personalmente credo che in uno Stato civile non si vede perché un fidanzato e una fidanzata eterosessuale o anche dello stesso sesso non possano assistere l'altro se è malato, non possono lasciare all'altro in eredità qualcosa. No alla equiparazione del matrimonio e no alla adottabilità dei figli da parte delle coppie dello stesso sesso. Forte presa di posizione dei vescovi italiani in vista anche del Family Day. Il cardinale Angelo Bagnasco non nomina la stepchild adoption, ma il suo messaggio è forte e chiaro. I bambini hanno diritto a crescere con un papà e una mamma. La famiglia è un fatto antropologico, non ideologico. Merita Cavallo, ex presidente del Tribunale per i Minori di Roma, ha appena pubblicato Si fa presto a dire famiglia. Ecco, oggi in Italia esiste una legge che consente l'adozione da parte di coppie omosessuali? No, non esiste, non può esistere, perché l'adozione viene fatta da una coppia coniugata che deve rispettare dei limiti di età, poiché non è possibile il matrimonio di una coppia omo, la coppia omosessuale non può adottare con l'adozione piena. Ecco, però lei parla di un'adozione mite in casi particolari. Sì, di un'adozione in casi particolari. Cosa vuol dire adozione mite? Adozione perché, mite perché lascia aperto i rapporti con la famiglia di origine. Ecco, ma in base a quali parametri si concede l'adozione di un bambino a una coppia gay? Il parametro fondamentale è l'interesse superiore del bambino. Deve essere dimostrato che questo bambino, in questo nucleo familiare fatto da due donne o anche da due uomini, è un bambino che ha un percorso adeguato di crescita, è ben integrato a scuola, è un bambino socievole, è un bambino sereno. È un bambino che sta bene, che cresce bene. Ecco, ma qual è la differenza tra l'adozione mite, di cui ha parlato lei, e la stepchild adoption? Come la presenta il disegno di legge della Cirinnà? No, è estremamente omologabile. Senta, il cardinal Bagnasco l'altro giorno ha detto che i figli non sono un diritto e che in realtà il diritto è quello dei bambini di avere un papà e una mamma. Lei è d'accordo con questo? Io credo che il bambino ha diritto ad avere una famiglia che gli dà tanto amore, con genitori responsabili che sono in grado di ascoltarlo, di dialogare con lui e di condividere con lui le sue scelte. E quindi cosa pensa dell'affermazione del cardinal Bagnasco? Ma penso che sono affermazioni retoriche. Nel suo libro lei racconta l'esperienza riuscita di una famiglia con due mamme. Lei crede davvero che mamma possa essere uomo o papà donna? Io credo che un bambino possa crescere nell'amore, nel rispetto delle sue esigenze da quando è piccolino a quando sarà un preadolescente e un adolescente. E nella mia vita così lunga di giudice minorile ho potuto constatare questo sempre. Lei è favorevole all'utero in affitto? No, io non su questo ho qualche perplessità. Ma di genere? Sul commercio, la parola utero in affitto suona molto male perché è pagata, però certo. Se noi pensiamo che ci possa essere una regolamentazione di persone che possono mi faccia un caso concreto in cui lei invece sarebbe favorevole, così capisco bene. Il caso bene. Concreto è quello che mi è capitato, cioè due persone nello stato del Canada, dove non è assolutamente accettabile il commercio, hanno utilizzato una donna che aveva 5 figli, ha potuto lasciare il lavoro per 7 mesi e dedicarsi ai suoi figli e ha portato in grembo il bambino di queste persone. E quindi lei non la considera una forzatura biologica la maternità surrogata? Io non la considero, perché noi possiamo donare un rene, io posso donare un rene a mia sorella, a mia figlia, certo. A un'amica. E quindi posso anche donare anche la vita nell'utero un bambino. Senta, lei ha affermato recentemente che i bambini oggi sono soli e sono esposti, che le famiglie numerose erano migliori. Perché? Soprattutto perché perché c'era il riferimento fraterno, c'erano più fratelli, c'era una coesione, c'era una... Guardi, io ne ho otto di fratelli, le assicuro che non è proprio automatico, eh? No, non è automatico, ma è comunque... Sarebbe stato molto peggio se fosse stato figlio unico. Ah, questo non sono sicuro. Senta, ma qua mia figlia unica, è felice. Senta, ma quale può essere un criterio per disciplinare giuridicamente il progresso scientifico in questo campo della procreazione? Secondo lei esiste un criterio? Si può trovare un criterio giuridico? Si può sempre trovare un criterio che, come dire, bilanci, che equilibri l'interesse della persona che ha il desiderio di un bambino e la possibilità che possa realizzare questo desiderio. Certo. Perché non è un diritto, non lo so, sicuramente non è un diritto avere un figlio, ma è un desiderio umano che lo Stato deve poter permettere. Quindi in questo è d'accordo con il Cardinal Bagnasco, che dice che i figli non sono un diritto, per l'appunto. Ma nella parola diritto significa io lo devo avere e qualcuno mi deve garantire che io lo abbia. Certo. In effetti io penso che è un desiderio della coppia. Beh, certo, che vive... lecito. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS è comario. Il 30 gennaio ci sarà il Family, sì, Day, che è la manifestazione contraria al disegno di legge sull'unione civili. Qualche giorno fa sono andati in piazza le famiglie arcobaleno, una contrapposizione molto forte, ideologica. Ecco, qual è il punto politico? Il punto politico è quello che hai detto tu, è tutto in una parola, ideologica. Il dibattito parlamentare purtroppo è stato, e quindi tutto il percorso anche della legge, è stato viziato da questa contrapposizione molto forte. La maggioranza del PD ha tirato dritto, anche ieri non è stata, sì, approvata all'unanimità, certo, ma in realtà, insomma, come abbiamo visto e vedremo anche nel corso della trasmissione, le divisioni sono molto profonde, non solo all'interno del PD ma anche nella maggioranza e fuori. È un problema politico molto più grande di quello che si immagini per Renzi. Una volta superato l'ostacolo si dirà è andato tutto bene, ma in realtà una lacerazione esiste. Teniamo presente la posizione della CEI, che è quella del Papa, che per molti, diciamo, atei devoti, è stata una sorpresa, perché pensavano che forse il Papa sarebbe stato un po' diverso, ecco, e così non è stato. Ecco, detto questo, solo la mia posizione personale, certo, io penso, vabbè, che i diritti delle coppie omosessuali vadano tutelati, poi ecco, bisogna vedere in che grado e come, però ecco, legge ci vuole. Ecco, Pietrangelo, secondo te vanno tutelati, come in tutta Europa, i diritti delle coppie omosessuali? Ogni testa è un diritto e ogni testa ha diritto, però la contrapposizione secondo me è antropologica, perché è in ballo un non detto ed è quello dell'eros, e allora bisogna dire che i desideri non determinano diritti. Quello che c'è in atto adesso è un combattimento dello spirito del tempo, per cui ci sono persone che hanno più diritti degli altri. Voglio dire che nella società di oggi, nell'Italia di oggi, nella religiosissima Italia di oggi, fa molto più scandalo avere un figlio che sceglie di diventare sacerdote piuttosto che dichiararsi gay. Il fatto stesso che perfino la figlia di uno dei due Marò abbia voluto fare questa uscita sottoscrive la vittoria definitiva dello spirito del tempo rispetto a quella che è soltanto un discrimine antropologico. C'è un'immagine che vorrei affidare, anzi ne affido due agli ascoltatori. Una è quella che si trova a Pompei, in una casa di Pompei, dove c'è il calco di un abbraccio, quello di un padre che protegge una donna che a sua volta protegge un bambino. E poi ce n'è un'altra immagine che tutti abbiamo dimenticato, che è quella della natività, della maternità, dove si vede un bambino attaccato al seno peloso di un uomo e nel frattempo l'altro, il cosiddetto partner, che lo abbraccia piangente, commosso, e poi di lato, dimenticata, la donna che è stata soltanto fattrice, che ha partorito quel bambino. Adesso lo so, mi lanceranno gli anatemi. No, è un'opinione. Ecco, noi abbiamo... Però lo spirito del tempo comanda su tutto. Insomma, comunque è interessante sentirle tutte, come dici tu. tot capita, tot sentenzie. Intanto abbiamo con noi al telefono, la saluto, buongiorno, l'onorevole Stefania Prestigiacomo. No. Buongiorno, senta onorevole, lei ha annunciato il suo voto favorevole alle unioni civili, ha detto l'Italia è pronta. Ecco, pronta a cosa secondo lei? A riconoscere i diritti delle coppie omosessuali troppo a lungo discriminati. Purtroppo con l'introduzione di questo tema della stepchild adoption, diciamo, il dibattito si è spostato, certo, su questo aspetto e poco si discute del merito della legge sulle unioni civili, perché oggi qualcuno dice anche dal mio schieramento: ma noi siamo favorevoli al riconoscimento delle unioni civili, ma probabilmente non è così, perché se ci fossero, cioè se il provvedimento fosse stato depurato da questa parte sulle adozioni, avremmo, beh, però non lo è stato, un dibattito tutto, certo, nel merito sulle adozioni, perché sì, per però non è uno stato. Dei temi di cui non si parla è la reversibilità della pensione, che, esatto, è un diritto fondamentale, certo, no? Certo. E che avrà un costo per lo Stato. Senta, onorevole Prestigiacomo, sì, lei è favorevole, che, prego. Scusi, lei è favorevole anche all'adozione, no, per essere chiari, è favorevole, sì, anche all'adozione da, sì, parte delle coppie gay? Io sì, perché qui non, okay, stiamo disciplinando la modalità con la quale viene concepito e procreato questo bambino, che evidentemente nel caso di due uomini avviene attraverso la pratica della maternità surrogata, che in Italia è vietata, ma che all'estero è riconosciuta da paesi civilissimi e si può fare. Qui stiamo, senta, disciplinando il prodotto, cioè che cos'è questo bambino una volta che arriva in Italia ed esiste agli occhi della società. Io credo che nel momento in cui si sottoscriveranno le unioni civili, a maggior ragione questi bambini saranno comunque all'occhio sociale figli di due genitori dello stesso sesso. Ecco, onorevole Prestigiacomo, ieri l'assemblea del PD, l'abbiamo detto, ha votato all'unanimità il disegno di legge. Lei pensa che la maggioranza del PD e di Forza Italia si ritroveranno sulle stesse posizioni? No, assolutamente. Io lei penso pensa che, di no? Io penso che questo tema delle adozioni rischia di non fare passare il provvedimento, quindi io, pur essendo favorevole, riterrei più saggio da parte della maggioranza di stralciare questo aspetto, anche perché ha innescato un dibattito in generale sulle adozioni. Quindi, però non mi sembra che la linea sia quella di stralciarlo. Non lo so, però ho l'impressione. Non sono sicura, cioè, dipende un po' dall'atteggiamento che avranno anche i 5 Stelle, certo, che naturalmente. Insomma, sono abbastanza, da questo punto di vista, sono abbastanza inaffidabili. All'ultimo momento potrebbero decidere di astenersi. Cambiare Senato, posizione. Ecco. Vale, no. Senta, tra qualche giorno ci sarà il Family Day. Ecco, vedremo che esito avrà. Ma sono persone e famiglie che rappresentano una minoranza, quindi sostanzialmente, probabilmente. Ma a me piacerebbe che ci fosse un Family Day tutti i giorni, cioè il fatto, vabbè, che però i governi si sarà devono occupare della famiglia è doveroso ed è giusto che ci siano anche manifestazioni in piazza. Questa manifestazione è contro le unioni civili e quindi, anche se mobiliterà un numero importante di persone, resterà sempre una minoranza. Ma potrebbe dare anche come dire, uno stimolo a far rinascere un partito di ispirazione cattolica, secondo lei? C'è questo, no, rischio? No, io non credo, no, che questo sia possibile. Basti, no, vedere la posizione dell'NCD nell'ambito della maggioranza, cioè se, certo, fosse l'NCD un partito adesso di vuole, ispirazione cattolica, adesso vuole il referendum, ha chiesto, sì, il referendum. Ma sì, questo è ridicolo, vivo ancora, certo, che c'è la legge, non c'è referendum, esca dalla maggioranza se veramente è contrario, certo, e vuole essere coerente con le, senta, sue posizioni. Senta, ma a lei le crea imbarazzo politico l'idea che con lei possa votare sì anche il Movimento 5 Stelle oppure no? Ma assolutamente no, io con tanti le accoglie, ha paura che non lo faccia piuttosto, no? Ma allora, intanto loro non hanno una posizione univoca su questo tema, perché il Movimento 5 Stelle è un po' tutto. Quindi, parlando con tanti colleghi, soprattutto alla Camera, ci sono tantissimi colleghi che sono pure contrari al tema delle unioni civili, sicuramente il tema delle adozioni, perché comunque non si riesce mai ad affrontarlo in maniera completa, poi nel quadro generale delle adozioni, di come avvengono le adozioni in Italia. e quindi c'è poca informazione, si è agitato questa cosa dell'utero in affitto, come se fare l'adozione interna alla coppia significhi autorizzare l'utero in affitto. Questi bambini ci sono già e continueranno ad esserci indipendentemente dal fatto che il Parlamento approvi o no l'adozione. Senta, onorevole, chi è determinato ad avere un figlio coppia omosessuale oggi può realizzare questo desiderio, esatto, certo. E quindi lo realizzerà comunque, si assume una grande responsabilità, questo va detto, perché non è che io devo in questo momento io dico è giusto la pratica dell'utero in affitto, ognuno rispetto a questo ha un'opinione. Però, e lei che opinione ha? Io la considero una forzatura, la considero una grande forzatura, però è anche vero che un conto è dire offro l'utero in cambio di denaro. Ma in definitiva un conto è entrare nel merito di storie. No, ma volevo sapere se in definitiva. No, certo, le storie, ogni storia è la sua storia, e quindi va inquadrata nella prospettiva nella quale nasce e si sviluppa. Ho una curiosità, che vorrei fare una domanda a Pietrangelo Buttafuoco, perché sono sicura che Pietrangelo Buttafuoco è uno fra quelli che ritiene che sarebbe giusto tornare alle case chiuse, cioè alla legalizzazione della prostituzione, perché tanti che si scandalizzano. Vabbè, gli ha fatto la domanda, adesso gli facciamo dare la risposta. Rispetto all'utero in affitto, devono spiegare la differenza fra offrire il grembo onorevole materno. Prestigiacomo, se non lo lascia rispondere non può rispondere, rispondi Pietrangelo. Scusa Stefania, però non ho capito la domanda. E non cioè me la fa finire. Non ah beh, se è lunga un chilometro, le domande devono essere semplici per essere capite. Tra vendere un rapporto sessuale legalizzato. Ah, ho capito. Sì, no, la differenza è l'eros. Sono contro l'utero in affitto. Lo lascia rispondere, onorevole. Lo lascia rispondere. La differenza è l'eros. Perché una cosa è la copula, mi dispiace poi andare nei dettagli, la cosiddetta retromarcia, e un'altra invece è la procreazione. Sono due cose diverse. Perché c'è una vita, c'è un terzo che arriva, c'è un'anima nuova che si presenta al cospetto del cosmo. Vabbè. E lì bisogna fare. Questo è c'è una bella differenza. Trattato automobilistico. Sì. No, senta, onorevole Presidente, volevo farle ancora una domanda finale. Lei è fra quelli che è rimasta deluso o no dalla posizione del Papa? No, ma non ci si poteva aspettare, il Papa ha già fatto delle aperture importantissime su questo e su altri temi, non ci si poteva aspettare. Quindi nessuna sorpresa, credo assolutamente. Grazie onorevole Prestigiacomo, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, insomma, politicamente la Prestigiacomo, mi sembra che Mario che abbia un'idea molto molto precisa. Beh, no? Sì, no, però politicamente secondo me questo è il classico caso in cui emergono delle conseguenze di tipo culturale e dunque di portato di idee e dunque alla fine politico, perché la verità è che Renzi copre un pezzo dello spettro politico del centrodestra, così. Certamente. E questo pone secondo me un serissimo interrogativo, ammesso che se lo vogliano porre, aggiungo, su che cosa sia il centrodestra italiano, perché si sta riducendo a che cosa? Un gruppo di no euristi che poi però sui temi etici in realtà vota con il partito cosiddetto progressista e dunque ha un'identità dividuta appunto. Vabbè, con ma la invece sinistra anche renziana. Nel PD le posizioni sono, anche se sono risultate unanimi, adesso sentiamo l'onorevole Fioroni. Posso solo aggiungere una cosa? Certo. Secondo me questo è il vero tema dei prossimi anni, non quello delle unioni civili, ma il contenuto, le idee etico di che cosa della politica. È della politica. Cioè, dov'è l'alternativa a Renzi? Non crederete che si fa urlando, si fa presentando un programma, ammesso che si voglia. Onorevole Fioroni, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei guida la corrente, diciamo, per semplificare, dei Cattodem. Ieri l'assemblea del PD però ha votato all'unanimità il disegno di legge firmato dalla sua collega Cirinna. Allora siete tutti d'accordo? No, ieri, diciamo. Ieri l'altro ha votato ieri, insomma. No, ieri. Sì, ieri ha votato l'impianto. Votare l'impianto significa che è stata condivisa l'idea sostanzialmente che la famiglia è una e i diritti sono per tutti. E voi quali sono le modifiche più importanti che invece voi chiedete? Noi abbiamo proposto, io prima una premessa, la riflessione che voi facevate che per me è importante. È vero che la nuova frontiera della politica sarà anche chi sostituirà Renzi e come, ma la nuova frontiera della politica sarà che saremo interpellati sempre di più dai temi etici, perché certamente oggi parliamo dai matrimoni gay e parliamo di adozioni, domani parleremo di eutanasia, poi parleremo del limite dell'utilizzo della genetica e dell'oncogenetica applicata ai farmaci, poi parleremo della brevettabilità del corpo umano, e io devo dire la verità, ho il terrore che su questi temi esista un'etica presa con la tessera di partito e con i programmi di governo, perché quando questo è accaduto la democrazia nel mondo ha vissuto i momenti suoi più bui e più drammatici. Questi temi interpellano la coscienza di ogni uomo e di ogni donna, ma e quindi vanno affrontati con la libertà di coscienza, diciamo. Vanno affrontati, io credo ci siano due strade. La strada principale, io ho provato inutilmente a inserirla. Però poi bisogna fare anche le leggi. Sì, credo che ci sia un modo preciso. Sì, no, è possibile, è possibile individuare con chiarezza il campo etico e della bioetica, che poi diventa biopolitica, inserire in Costituzione, invece che il referendum abrogativo, che già c'è, il referendum di indirizzo, che diventa l'orientamento prevalente delle coscienze degli uomini e delle donne italiane, che diventa un faro, non andare a abrogare una legge che il Parlamento ha fatto. Io ho paura di questo, ho paura che l'orientamento prevalente delle coscienze dei parlamentari non è detto che coincida in questi temi con quelli del paese. Onorevole Fierone, paura che su questi temi il Parlamento tra un poco scriva le ricette. Bene. Onorevole Fierone, lei parteciperà al Family Day, no? Sì, io parteciperò al Family Day, ma perché? Non è una non notizia. Perché? Chiedo il perché. Facevo una battuta, ho detto è una non notizia, ci partecipate a ministro in carica nel 2007. Certo, sollevando benissimo. Le ire di tutto il mondo. Io credo che in una democrazia matura il presupposto sia il reciproco, la reciproca accettazione e la possibilità di confrontarsi. E poi la maggioranza ha il dovere di poter decidere. Credo che mettere le due piazze uno contro l'altro sia un errore. Quella è una piazza che testimonia non contro qualcosa, ma è... Sono quelli che pensano che si possa su questi temi fare campagna elettorale, dire io lucro un consenso qui o lo lucro di più alla piazza di domenica scorsa. Vabbè, su questi temi la contabilità dei voti non esiste, quella è una piazza a favore della famiglia, a favore dei diritti dei figli, e che chiede che tutti noi ci impegniamo di più per le politiche. Ma anche quella arcobaleno dice, anche le piazze arcobaleno dicono le stesse cose da questo punto di vista. Ecco, ma essere probabilmente, no, questo non lo so, si vedrà, probabilmente in minoranza in questa battaglia è una cosa che la turba oppure no? A me non, quando uno ha la propria convinzione non mi turba essere minoranza. Io ho fatto una battaglia, come gli ho detto prima, famiglia unica, come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica leggendo i giornali, aver fatto riferimento per le unioni civili all'articolo 2, aver tolto i riferimenti al codice in maniera ridondante che facevano riferimento al matrimonio, confondendo e rischiando di creare ricorsi alla Corte Costituzionale, aver elencato i diritti sacrosanti che vengono riconosciute alle coppie omosessuali o di fatto, mi sembra un passo in avanti straordinario per il paese. Onorevole Fierone, sull'adozione io sono personalmente contrario. Lei l'ha definito... Sono personalmente contrario alle adozioni. C'è la possibilità per i fatti, per i bambini esistenti, come ricordava prima la prestigiafono, con piccole modifiche alla normativa esistente, di garantire tutto, ma fare le cose che aprono all'utero in affitto io ritengo un crimine contro l'umanità. Ho letto sul Corriere della Sera una dichiarazione riportata di un noto esponente del mondo scientifico e laico, che avendole lette, quindi non so se siano vere o no, ma definiva l'utero in affitto come strumento per consentire a chi non ha risorse di andare avanti, oppure per poter dare a un figlio un futuro migliore rispetto a quello che si potrebbe permettere. Ecco, senta, privare lei... al figlio del diritto ad avere la madre, questa mi sembra un crimine contro l'umanità. E questa è la sua posizione. Senta, un'ultimissima cosa, Bersani... Lei ha detto che ci sono grandi cambiamenti nella Chiesa. Lei gli ha risposto dandogli del teologo, cioè cosa vuol dire? Che mi sembra ma brevemente Papa, perché siamo in chiusura. Ti metto un secondo, mi sembra la posizione di Papa Francesco sia chiarissima. Papa Francesco ha fatto il giubileo della misericordia per accogliere chi ha dovuto già prendere decisioni sofferenti e stare vicino al peccatore. Di certo Papa Francesco ha ribadito non la proporzione di quello che per chi è cattolico, parlando alle coscienze dei credenti, viene ritenuto essere qualcosa che non esiste. Insomma, senta, la l'ha distinzione detto, tra l'ha misericordia detto. Al peccatore e intransigenza col peccato. Senta. Mi sembra che questa sia la linea di Papa Francesco. Senta, lei nel 2007 l'ha detto, è andato al Family Day, in piazza c'era anche Matteo Renzi, che oggi è a capo del partito, che va all'Unione Civile. Ha cambiato idea Renzi oppure c'è coerenza? Io credo che Matteo Renzi sulle unioni, che la famiglia sia unica e i diritti siano per tutti, la pensa esattamente come me. E gliel'ha detto? Gliel'ha detto lui? No, gliel'ho detto io a lui. Ah, va bene. Il Presidente del Consiglio rappresenta gli italiani e quindi ha più responsabilità di me nella rappresentanza. Grazie, onorevole Fiarone. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. Pietrangelo Salamino. Salamino. Banca Etruria. Caso politico, caso spinoso, caso per caso. Per caso avete una banca, Giovanni, Mario? No, oh, non ancora. Allora, oggi la mozione di sfiducia sarà respinta al Senato. La sinistra vota a favore della Banca Etruria. La sinistra PD vota a favore della Banca Etruria e di Maria Elena Boschi. Bene. E siccome, parole di Matteo Renzi, non sarà una fiducia al governo, non avendo i voti per superare la prova, sia la sinistra che la sinistra PD avranno l'aiuto di avranno l'aiuto, il soccorso, l'ossigeno di Denis Verdini, che è l'unico vero gigante in questa masnada di piccoli manovrieri. E così ALA, cioè Alleanza Liberal Democratica, dovrebbe essere questa, no? Però non ho capito perché ALA, se ce la di. Comunque, ALA entra nella maggioranza. Certo, la situazione non è di quelle facili, perché l'8 febbraio il padre di Maria Elena Boschi potrebbe finire indagato. E però... Gigante! E però il gigante è contento, perché comunque è saltata la nomina di Marco Carrai, pare non si arrivi, non diventerà. Ma forse non era mai neanche in pista quella nomina. Era in pista. Vabbè, insomma, comunque so, c'era, non c'era. Vabbè, vediamo. Fatto sta che lui. Lui, cioè, Verdini, dunque, ha detto no e quindi non se n'è parlato più. Però poco male, anche tutti sti guai, però poco male, perché, vi racconto, lo leggo dell'Huffington Post, da Bisceglie arrivano buone notizie. Quali? Conversioni di massa, 363, tra consiglieri, assessori, dipendenti comunali, trombettisti... Sì, pure i clarinettisti, puntonieri, cavalieri, bracieri e supplenti arrivati giusto ieri. Insomma, in 363 sono passati al Partito Democratico, compreso il sindaco Francesco Spina, che ha cambiato nell'ordine Forza Italia, CCD, UDC, la lista di Fitto, la lista di Monti, NCD e fino a 2 anni fa era presidente della provincia per il centrodestra e giusto ieri coordinatore elettorale del presidente Michele Emiliano. Ora, Giovanni, a questo punto, dimmi una cosa. Tu che musica vuoi per chiudere? Mettiamo Gigante o quella canzone lì? Mettiamo Gigante. Gigante! Oggi proprio Dennis, Dennis l'apologia, l'apologia del gigante. Tanto quella canzone resta lì, è sempre pronta. Quella canzone. Senti Mario, c'hai la bolla tu? Sì, facciamo un giro fuori dall'Italia, che ci siamo rimasti un po' troppo. E David Bowie e China Girl la conoscono in molti, è un pezzo che è uno dei miei preferiti. E perché? Perché parliamo di Cina, parliamo di speculazione, parliamo di un grande speculatore che si chiama George Soros, che però ha fatto arrabbiare parecchio Pechino, perché ha detto che sostanzialmente la Cina è responsabile di una deflazione globale, quindi di un rallentamento della crescita e così via. E la cosa interessante è che lo speculatore che fece crollare la lira nel 92, la sterlina pure, provocando una crisi monetaria che non aveva neanche precedenti in Europa, e, beh, insomma, è finito sotto l'attacco a sua volta dell'agenzia di stampa, la Xinhua, che è importantissima gestione di stampa cinese, che dice: ah, è così, noi siamo responsabili della decrescita. Bene, allora sappiate che noi con i nostri turisti spendiamo ogni anno 180 miliardi di dollari in giro per il mondo, che abbiamo investimenti per 110 miliardi di dollari realizzati all'estero. Provate a immaginare, e poi vedremo l'immaginazione dopo, se riusciamo, che cosa sarebbe il mondo, che cosa sarebbe la crescita globale senza la Cina. Devo dire che sono argomenti piuttosto molto forti, solidi. Piuttosto solidi. Anche Soros è uno solido quando si mette in sala trading, comunque. Canzoniere! Quando lo spirito si avvicina ai gradini superiori delle sue facoltà, giunge necessariamente alla verità. Qui finisce la conoscenza e subentra le venerazioni. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Sa che gli europei, in particolare i francesi, non hanno dimenticato? Io ho dimenticato. Se loro non riescono a dimenticare, è un'altra questione. Non possono processarmi, colpevole o non colpevole. Non mi riguarda. Non possono processarmi. Così Klaus Barbie durante il volo dalla Bolivia dopo l'estradizione in Francia. Sarà invece giudicato e condannato all'ergastolo da un tribunale francese. È il 4 luglio del 1987. Per 40 anni il boia di Lione, capo della Gestapo durante l'occupazione nazista della Francia, è rimasto impunito. Klaus Barbie è responsabile di molti crimini, uno davvero inumano: la deportazione dei 40 orfani ebrei nascosti in una villa a Isieux, sulle montagne del Jura francese. Finiranno tutti nelle camere a gas di Auschwitz. Au revoir les enfants, i bambini di Isieux. Nel giorno della memoria, la storia di 40 ragazzini del loro carnefice, la battaglia di un gruppo di irriducibili avvocati che vollero giustizia. Qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario? Sì. C'hai ancora una bolla? Sì. Sugar, Rolling Stones, sempre un classico, devo dire. E avevo promesso che saremmo rimasti in Cina, esatto, in qualche maniera, e ci restiamo, però con lo sguardo puntato anche sull'Atlantico e sugli Stati Uniti, in particolare in realtà poi sul Pacifico, perché in California, e cioè su Apple. È molto interessante quello che sta accadendo alla Casa della Mela, perché le vendite di iPhone nel 2016 cominciano ad avere proiezioni di forte rallentamento. E dove? In Cina, dove c'è una concorrenza molto forte di altre case, di produttori cinesi importanti, che fanno telefonini di medio-basso costo, insomma low cost proprio in realtà, e molto, molto efficienti, e sai, proiettano di vendere 50 miliardi, di avere dei 50 miliardi di ricavi da iPhone, che significano 45 milioni di pezzi circa. Uno dice tanta roba, sì è vero, tanta roba, confermo, ma è anche il 26% in meno, per cui chi ha titoli anche l'iPhone, sai, prima o poi finisce, quando ce l'hanno, non è che va avanti all'infinito, il mercato si satura, poi ci sono le condizioni dell'economia cinese che appunto sta rallentando, esatto. Questo a riprova di quello che dicevamo prima, cioè quando il dragone cinese rallenta sul serio ci sono problemi per tutti, perché è un grande mercato. Adesso con il professor Roberto Bernabei, come al solito, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste più famose del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. American Journal Clinical Nutrition, gennaio 2016. Mortalità tra vegetariani e non vegetariani nel Regno Unito. Vi ricorderete bene come qualche tempo fa ci fu il bando da parte del WHO della carne come carcinogenica. Poi ne abbiamo anche parlato, e questo bando deve essere veramente circoscritto, perché di fatto è un discorso della carcinogenità della carne che deve essere molto limitato, molto inquadrato, ed è un po' come la carcinogenicità del sole. Anche il sole fa male se preso in quantità industriali. È evidente che senza sole camperemmo molto male, forse per nulla. Lo stesso vale per la carne. Ma una cosa a supporto di questo che vi sto dicendo viene da questo articolo dell'American Journal of Clinical Nutrition, che è andato a vedere in una corte di oltre 60.000 persone che vivono nel Regno Unito qual era la mortalità tra mangiatori di carne, mangiatori modesti di carne, mangiatori di pesce e vegetariani. Bene, la morte è stata, di questi 60.000, di 5.294 nel periodo in cui sono stati seguiti, e non c'è stata alcuna differenza nella mortalità. Quindi non è che essere vegani o vegetariani, vegani sapete sono quelli che consumano solo vegetali, non c'è alcuna differenza nelle due popolazioni, ma l'unica cosa è che ci sono alcune differenze nella mortalità per le malattie più frequenti, il cancro o quelle cardiovascolari, ma addirittura ci sono delle sorprese, si muore più per malattie cardiovascolari se sei mangiatore di pesce, quindi a dire che il problema non è da ascrivere ad un singolo alimento, il problema è di fare un consumo verosimilmente di tutto quanto che ci permette di averci tutto l'introito alimentare necessario. E per finire, Gloria Guerrera, cosa ci presenta oggi? Oggi ascoltiamo una canzone poco nota e molto sensuale di Ornella Vanoni, che si chiama Tatuaggio. Voglio restare sul tuo corpo come un tatuaggio che per darti coraggio e proseguire il viaggio. Quando è notte in te, voglio essere una schiava sulla tua pelle, che tu rinneghi, raschi, sfreghi, ma non cancelli. Voglio ballare sul tuo corpo come ballerina che ad un tratto si ispira, salta e ti si inchina quando è notte in te. E sui tuoi muscoli sfiniti dall'ultima carezza riposare stanca, piena, vuota, morta di stanchezza.